il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Nella nostra trasmissione, il quadrifoglio, parliamo spesso di agricoltura e di alimenti. Poche volte abbiamo parlato invece di alimenti cucinati. Lo vogliamo fare oggi con lo chef di uno dei più noti ristoranti del Veneto, Franco Favaretto, del Baccalà di Vino di Mestre. Benvenuto intanto, Franco. Grazie e buongiorno a tutti. Ecco, con te vorremmo parlare oggi di ristorazione veneta, qual è un po' la situazione della nostra cucina regionale, e ovvero del recupero della tradizione culinaria locale ma anche dell'innovazione. Il tuo locale, appunto Baccalà di Vino, porta fino al nome il richiamo ad un prodotto tipico, appunto il baccalà, che in realtà sarebbe lo stoccafisso. E poi anche nel biglietto da visita voi non vi chiamate ristorante, pur essendo un noto ristorante, ma trattoria a tutti gli effetti. Quindi vorrei partire un po' da qui, dalla trattoria e dal recupero della tradizione culinaria. Ma ti dirò, il nome trattoria è stata una scelta proprio perché come un segno di cose più calorosa, uno entra e si siede a tavola e si sente a casa sua. Il ristorante sembra un po' una cosa un po' staccata, una cosa un po' più fredda, ma è una cosa mia personale questa, per carità. E poi questa storia del baccalà, giustamente precisato, noi veneti chiamiamo baccalà lo stoccafisso, e questo è sempre un problema spiegarlo ai clienti quando non sono veneti, perché quando arriva il piatto dicono questo non è baccalà, è stoccafisso, esatto. Ma siccome sbagliamo dal 1400 erotti, quando Pietro Querini è arrivato con questo stockfish, appunto, no, pesce bastone a Venezia dalle isole Lofoten, e esattamente perché noi sbagliamo, non sono andato anche alla ricerca ma non mi è stata mai data una risposta. Comunque, vabbè, soprassediamo, anche perché noi li lavoriamo entrambi, sia lo stoccafisso che il baccalà salato. Baccalà, certo. Ecco. Ma tra la cucina tradizionale, cosa significa oggi un recupero della cucina tradizionale? Questo riferito sia ai veneti, ma anche poi ai turisti, poiché che certo, vengono qui per scoprire. Certo, il turista arriva, abbiamo questo grande turismo sia enogastronomico che culturale, insomma, siamo un passo da Venezia, quale certo. Città più ricercata in Italia. Però giustamente vogliono mangiare la tradizione, però la tradizione, come dire, il piatto tradizionale è un po' vivo, fare assaggiare i veri sapori nostri, la nostra veneta veneziana, però magari con un tocco di personalità. Ogni mio collega ci mette un po' del suo. Da oggi stiamo proprio fotografando per un libro il Saori visitato senza sarde, ma con tutte le verdure appunto in carpione, quindi è sempre un sapore, per dire, no, anche se non parliamo di baccalà. Il risotto di Go non dobbiamo mai mancare, la frittura di laguna con le verdurine croccanti assieme, cioè devono mangiare le cose vere, e soprattutto cerchiamo di ritornare sì ai prodotti locali, ma soprattutto che abbiamo un po' perso le staffe noi tra virgolette professionisti della stagionalità. Ecco, infatti c'è un recupero anche della stagionalità effettivamente, sì, in molti ristoranti. Assolutamente, insomma, torniamo a usare le verze, che è una cosa che ci toccava più in cucina da anni, voglio dire. Mangiamo il radicchio, ma non mangiamo le zucchine a Natale, cioè cerchiamo dalla scuola alberghiera di mettere nel cuore questa cosa, di far capire. E poi insomma abbiamo talmente tanti prodotti, ma non in una regione, ma in ogni provincia addirittura, delle tipicità, insomma, dalla cipolla, dalla carota, dalla patata americana. Cominciamo a usare le cose povere. Ecco, il primo passo forse sono proprio gli ingredienti, cioè non la cipolla a caso comprata al supermercato, ma andare anche a scegliere quali, quando si parla di tipicità. Ma insomma, stanno nascendo tutti questi mercatini dal produttore al consumatore, quindi magari sì, sentire anche i gusti veri, cioè cercare delle nostre tipicità, di non stupire con le nostre tipicità. Ci sono degli chef che dicono che partono la mattina, vanno a fare il giro al mercato, scelgono direttamente le cose, se le portano e poi le cucinano. È vero, sono vere queste storie? È abbastanza vera, sì. Difatti io non sono quello che ha 5 pagine di menù, voglio dire, oggi si mangia questo. Nel senso che è la cosa più bella, e soprattutto si riesce ad avere sempre un prodotto sempre fresco di giornata. Ecco, ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. It slowly turned you, let me burn. Say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di cucina, lo stiamo facendo con Franco Favaretto del Baccalà di Vino di Mestre. Abbiamo parlato di cucina tradizionale, però anche come ristoratori cercate l'innovazione, cioè mangiare una torta o un piatto fatto in casa, fatto dalla nonna, e lo stesso piatto fatto da un ristoratore, ci deve essere qualche cosa di diverso. E poi si cerca anche di stare al passo con i tempi. Come state cercando di innovare questi piatti tradizionali? Ma dobbiamo dire la verità, insomma non ci nascondiamo, la crisi c'è, è grande, e quindi dobbiamo stare molto attenti al full cost, cioè quanto costa il piatto, perché sicuramente non sono momenti da aumentare il menù, e quindi con questa attenzione, usando i prodotti nostri del territorio e soprattutto stagionali, riusciamo a battere i costi, insomma. Poi quanto riguarda nel mio caso il baccalà, si sa, insomma, lo stoccafisso purtroppo ogni anno aumenta, invece abbiamo la fortuna che quest'anno sembra che qualche euro perché appunto la Norvegia, che hanno una pesca contingentata, quest'anno hanno aumentato le quote di pesca, quindi sembrerebbe, certo. Speriamo che, perché sta arrivando adesso il primo nuovo, che abbassi qualche euro, quindi magari riusciamo a non mantenere le ricette, i piatti senza aumenti. Che appunto, come mi ripeto, non è il momento, insomma, in questa, certo, grande crisi, Dopo c'è la fortuna che comunque la gente non è che venga al ristorante perché ha fame, deve sfamarsi, per il momento, per fortuna. Quindi ecco lì che l'innovazione deve un po'... Cioè, la gente viene al ristorante cercando anche delle cose diverse per assaggiare. Sì, deve appunto avere un'emozione a tavola, se no altrimenti, come dico io sempre, non mangio bene anche a casa mia suocera. Ecco, rispetto al baccalà è un po' l'esempio tipico, perché esiste questo Festival Triveneto del baccalà che in realtà punta all'innovazione, cioè non a chi fa meglio il baccalà secondo la cucina tradizionale, ma a chi riesce a fare la ricetta innovativa più buona. Sì. E che cosa è venuto fuori da queste... È nato proprio da questa idea, no, dell'utilizzo dello stoccafisso, perché anche i miei grandi amici stellati, una volta mai si sarebbe pensato di trovare un piatto di stoccafisso baccalà da uno stellato, pensando a un piatto povero. Invece più passa il tempo più se ne trovano con, ecco, per stellato fattorie. Cosa intendete esattamente voi ristoratori? Ah no, beh, chi ha un riconoscimento della Guida Michelin. La Guida Michelin, perfetto. Sì, ecco, quindi con mio grande piacere eravamo partiti con tipo di locale, invece adesso abbiamo sempre più richiesto di questi colleghi stellati, ben venga, insomma, mettersi in gara, mettersi a misura con loro. Loro veramente, non ce n'è uno che non ha una mente fervida di fantasia. Ma e con cosa lo abbinate questo il baccalà, appunto? Che tipo di abbinamenti fatti? No, ma non è quanto l'abbinamento, è proprio il piatto innovativo. Cioè, il festival consente questo: chi partecipa deve presentare nella sua serata, nel suo locale, tre piatti completamente innovativi. Cioè, non si possono usare ricette tradizionali in Veneto, tipo appunto il mantecato a Venezia, la vicentina a Vicenza, cioè utilizzare facendo dei tortelli, facendo delle paste, facendo dei secondi, usando il dissalato, che noi in Veneto non è che avevamo un gran uso prima. E, insomma, cioè, il piacere è che ogni anno, appunto, sono sempre una trentina di ristoranti, quindi ogni anno noi abbiamo 90 ricette, perché tre per il ristorante, 90 ricette completamente nuove. Questo per far capire che è un pesce utilizzato sia secco, appunto stoccafisso, o salato, con una grande duttilità, cioè proprio veramente non ci sono confini di fantasia. Un piatto che non si finisce di riscoprire. Allora, per concludere. Diamo due indirizzi internet, quello del Festival del Baccalà, se qualcuno può essere interessato, che è www.festivaldelbaccalà.it, e anche quello del ristorante Baccalà Divino, se qualcuno fosse interessato al tuo ristorante, sarà www.baccaladivino.it. Esatto. Benissimo, grazie. Perfetto. Grazie a voi, buona giornata. Passiamo adesso ad alcune notizie. Il Parlamento europeo ha adottato regole nuove per stabilire un tetto all'utilizzo di biocarburanti tradizionali e un passaggio rapido a biocarburanti ricavati da fonti alternative. L'obiettivo delle nuove misure è quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute anche al crescente utilizzo dei terreni agricoli per colture destinate alla produzione di biocarburanti. I dati scientifici infatti hanno dimostrato che l'aumento delle emissioni può cancellare alcuni dei benefici dei biocarburanti quando viene considerato l'intero ciclo di vita del prodotto dalla produzione al consumo. Il voto del Parlamento punta dunque sia alla corretta contabilizzazione delle emissioni di gas serra che alla produzione di biocarburanti sempre più puliti a partire dal 2020. Rimanendo in questo tema, per produrre energia l'ideale sarebbe impiegare nei biodigestori non colture usate anche per l'alimentazione, come il mais, ma residui organici spesso destinati all'inutilizzo, come l'erba derivanti dalla gestione del territorio. Va in questa direzione un progetto che viene presentato mercoledì 9 ottobre all'interno di Smart Energy Expo, la prima fiera dedicata alla sufficienza energetica e alle energie alternative e sostenibili, in programma a Verona dal 9 all'11 ottobre. Il progetto coinvolge 11 partners provenienti da 9 regioni europee e per l'Italia, Veneto Agricoltura e l'Università di Verona. Mira al recupero per la produzione di biogas di residui appunto della manutenzione di aree urbane, agricole e protette, spesso sottoutilizzati per motivi vari che vanno dalla mancanza di tecnologie idonee per la falciatura, all'assenza di cooperazione tra gli operatori della filiera, ma anche alcuni ostacoli di natura giuridica. Attivando invece apposite catene di approvvigionamento si potrebbero aprire anche nuove opportunità per gli imprenditori agricoli. Infine un appuntamento, torna dall'11 al 13 ottobre Mele a Mel, storica manifestazione che promuove le tipicità locali della vallata bellunese, in primis la mela, la quale sono dedicate molte iniziative, in particolare una mostra mercato tra i cortili e le vie del centro storico e una mostra pomologica che espone oltre 100 varietà di questo frutto. L'intero programma è disponibile sul sito www.meleamel.it.